piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Due Rolex, un bracciale della moglie, altri monili in oro, 10 borse di marca, il bottino del furto che ha mandato su tutte le furie Franck Ribéry. I ladri sono entrati nella sua villa di Bagno a Ripoli mentre lui era in trasferta con i Viola a Parma. Quando sabato pomeriggio ha lasciato l'abitazione non aveva attivato l'allarme collegato al 112. I ladri sono entrati da una porta finestra, poi hanno manomesso il sistema di videosorveglianza. Nella notte, rientrando, la brutta sorpresa. Sono scioccato perché la mia famiglia, che per fortuna si trovava a Monaco di Baviera al sicuro, viene prima di tutto. Noi prenderemo le decisioni necessarie per il benessere. Lo sfogo del transalpino su Instagram, che dunque allude alla possibilità di lasciare Firenze. Questa mattina è entrato nelle cronache sportive di rimando il messaggio su Instagram di Franck Ribéry, che impara a conoscere questa mattina, essere giocatore francese in carico alla Fiorentina adesso, la cui casa è stata svaligiata. Su Instagram c'è l'accorato messaggio della moglie, la signora Guaiba, dice: si rivolge direttamente ai ladri, che educazione avete avuto? Il mio cuore batte non tanto per il materiale, ma anche se queste cose avevano un valore sentimentale, ma perché è stata violata la mia intimità. E c'è un breve video che si vede la casa devastata, come accade sempre quando entrano i ladri a casa, vanno a mettere le mani, brutto, nella stanza dei bambini, a guardare sotto il letto, ma soprattutto nel cassetto della biancheria. E qui sta il punto: l'intimità violata è l'effrazione fastidiosa, disturbante di pensare che stranieri vanno a mettere le mani nelle cose che ci mettiamo addosso, le cose che fanno parte della nostra intimità. Ma è pur vero che in realtà là si nascondono le nostre gioie. Le gioie fondamentalmente si nascondono nel cassetto della biancheria. È classico il nascondiglio della mutanda per il gioiellino, la catenina e l'anellino. È tanto classico che ormai i ladri vanno a botta sicura e cominciano a andare a vedere lì dentro. Poi in subordine cominciava a dare nei barattoli dei fagioli secchi, dentro il barattolo dello zucchero, del sale, della pasta, e in tutti quei nascondigli che ci tramandiamo di padre in figlio, di nonno in nipote, e continuiamo in maniera indefessa a usare come ricettacolo delle cosette di piccolo valore, poi anche medio valore, grande valore, come gli orologi, le catenine, le medagliette. Queste sono le cose che mediamente una famiglia ha quando non ha particolari valori, non ha quadri, non ha oggetti d'arte. La media famiglia ha dei piccoli gioiellini che non vuol mettere nella cassetta di sicurezza, non dice che li ho a fare se poi devo chiuderli a chiave in una cassetta di sicurezza, e quando lascia casa, sapendo che i ladri di appartamento sono stati in lunga astinenza per tutto il lockdown, in cui le case erano presidiate dai loro occupanti, e adesso hanno ricominciato di brutto. Come la gente esce per riprendere un po' d'aria, per riprendere le abitudini di socializzazione all'esterno della casa, le case sono in mano ai ladri di appartamento. Quindi ritorna un problema che era stato accantonato. Non si parlava di furti in casa, se ne comincia a riparlare. Poi voglio partire proprio dal caso della signora Guaiba, che è rimasta talmente male che il marito vuole andarsene da Firenze. Poi sarà una cosa detta emotivamente, a caldo: in qualunque città si va, si ha questo rischio. Naturalmente non è Firenze, che, sapendo che è un calciatore, persona probabilmente si presuppone con un potere di acquisto superiore alla media, dice: andiamo a vedere a casa sua cosa ci ha nascosto. Gli è andata male che hanno preso piccole cose, ma in questo caso vorrei, in questa trasmissione assolutamente di servizio, riconfrontarmi con voi, come abbiamo già fatto qualche tempo fa, su quelli che possono essere i nascondigli di fortuna per le piccole cose di valore che non vorremmo mai che ci fossero portate via. Allora, escludiamo subito cassaforti di ogni tipo, anche perché dopo aver visto a casa di un'amica mia una cassaforte completamente sradicata, con un frullino che uno si può portare dietro senza che nessun vicino se ne accorgesse, aperta veramente come una scatoletta di tonno, dico: chi ha la cassaforte, ha fatto già questa spesa, la lascia aperta, così almeno evita anche di dover ristrutturare poi lo stanzino della cassaforte. Però dove si mettono i gioiellini? Dove si mettono le cose? I contanti che si tengono in casa? I marenghi d'oro ereditati da qualche vecchia zia che non abbiamo il coraggio di vendere e via dicendo? Beh, c'è una ampia casistica di nascondigli di fortuna. Oggi ritorneremo, riporteremo alla memoria quelli che abbiamo già toccato, vedremo se se ne sono inventati di nuovi. Quindi 800 24 00 24, in quale riposta intimità della vostra casa nascondete le vostre gioie? Ci sono circa 200 miliardi di euro di contanti nascosti in Italia, più del 10% del PIL. Tutti gli italiani, neonati compresi, hanno almeno 3.000 euro di soldi contanti stipati da qualche parte. Non resta quindi che nascondere i contanti. Ma dove? Ecco i suggerimenti che abbiamo trovato in rete per nascondere i contanti. In un chiodo avverabile, vuoto all'interno, dentro una porta, oppure dentro il ricambio dell'aspirapolvere, o dentro un barattolo delle medicine, o dentro un pacchetto di gomme da masticare, oppure dentro una scarpa vecchia, dentro le mattonelle del parquet, dentro il condizionatore, dentro un finto libro vuoto, in un sottocassetto, in una collezione di dischi in vinile, in una cassaforte coperta da una mattonella del bagno, in un album di fotografie o addirittura dentro lo scarico del bagno o dentro una vecchia presa elettrica. 800 24 00 24. Innanzitutto ringrazio Valeria Bernardi che è in regia a Milano, Mirella Lucchetti in assistenza, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a Roma. Allora, avete sentito da questa prima elencazione di nascondigli camuffati, già probabilmente sono entrati quelli che voi considerate inviolabili o sicurissimi a casa vostra. Ma dove nascondete questi oggetti? Ma non perché questo deve dare indicazione ai ladri, o perlomeno avete sentito che li tengono nascosti i vostri amici, quali sono i nascondigli segreti che vi hanno suggerito di usare. Lo vogliamo fare perché, portandoli alla luce del sole, quindi confermandone lo stereotipo, evitiamo che le persone continuino a tenere i soldi o i gioielli nascosti nel pacco delle penne rigate, perché naturalmente lì è il primo posto che vanno a vedere, o dentro lo zucchero, o nell'armadio delle scarpe, dentro le scarpe. I ladri quando entrano in casa rovesciano subito tutto, prendono i cassetti e li rovesciano. Ogni cosa che in qualche maniera non è saldamente ancorata a un altro oggetto in maniera indissolubile viene subito scoperta. Poi vanno in cucina, buttano tutto fuori, svuotano le dispense, svuotano i frigoriferi, svuotano le arance, poi vanno a smontare, se hanno tempo, le prese della corrente, perché ci sono quelle cassafortine nascoste nelle prese della corrente. Poi cominciano, se hanno tempo, ad aprire i letti, aprire i materassi, anche lì andare in bagno, guardare dentro le cassette dello scarico. E se hanno ancora tempo, smontano anche i sifoni, e sentono se ci sono dei doppi fondi nelle pareti, e calpestano il pavimento per sentire se avete sotto la doga del parquet finta nascosto qualcosa. Poi guardano dentro le lampadine. Ma voi avete altri posti che vi hanno violato, che vi hanno scoperto, che giudicavate inviolabili? Voi pensate che se guardate in rete esistono un'infinità di tutorial di siti dove nascondere la roba, e ne sentiamo uno adesso preso dal gruppo YouTube Sicurezza SRL, dove si suggeriscono delle soluzioni per nascondere gli oggetti. Possiamo nascondere i nostri beni non in una cassaforte comune, ma in nascondigli all'apparenza invisibili. La finta presa logicamente ci permette, tramite una rotazione di una brugola, di poter aprire un tappo ed accedere a un vano sottostante che può essere aperto con una semplice chiave o con una combinazione. Successivamente è stata ampliata la gamma dei segreti introducendo i segreti a nascondiglio dietro attaccapanni con o senza serratura. Bello questo linguaggio aulico arcaico, i segreti erano quei cassettini nei mobili straordinariamente realizzati da artigiani, in cui esistevano dei cassettini invisibili in cui si potevano nascondere segreti, appunto, biglietti d'amore, lettere d'amore, messaggi compromettenti o anche oggetti di valore. I segreti oggi sono, sentito, placca dell'interruttore finto, ma i ladri ormai li trovano anche questi, lo sanno, li vedono a colpo d'occhio. C'è il finto davanzale che viene fuori, c'è il letto a doppio fondo, ci sono i libri a doppio fondo, ma le librerie, a meno che non abbiate stanze e stanze tappezzate da libri, li buttano tutti giù, li tirano giù, se c'è un libro finto lo vedono subito, o nelle pagine di un libro nascondere le banconote, sì, ma può funzionare, però non c'è mai la sicurezza. Esiste il nascondiglio sicuro? O possiamo aggiungere all'elenco dei nascondigli ormai talmente usati da non essere più sicuri quello che è stato violato nella vostra casa o nella vostra esperienza? Barbara, provincia di Lecco, buongiorno. Salve dottor Nicoletti, niente, io ho l'abitudine di nascondere, di porre le cose in qualunque posto, perché io ho quella logica che se devono trovare qualcosa lo trovano ovunque. Quindi il le sparpaglia sì, io sparpaglio in tanti soldi posti dappertutto, diversi. Nelle buste. Beata lei, si vede che ne ha tanti, li mette in delle buste, no? Mi spieghi la tecnica, perché oggi dobbiamo fare un tutorial noi. Lei faccia allora, delle mazzettine di soldini che sono soldini, che ne so, il suo stipendio che vuole tenersi in casa per le spese immediate. Una volta li metto nel cassetto dell'intimo. Ma li divide in tanti mucchietti, diciamo, quant'è ogni mucchietto? Dentro, ma no, non conto neanche, dico la verità, li metto in varie buste e poi dopo ne metto un po' di qua, un po' di là. Il problema è che dopo non mi ricordo dove li metto. Infatti durante il Covid io mi sono trovata 750 euro, tre buste che non sapevo, chissà da quanto tempo erano lì. Barbara, è sorprendente che nel suo budget personale possono sparire 750 euro cash, lei bravo, non se ne accorge, bravo. Va mia bene, sempre, sono contento. Una nel tostapane, una in una scatola dove c'è nel foulard e una sotto un cassetto. Allora, ma il tostapane non c'è rischio se uno si fa un toast e poi gli carbonizza le banconote? No, ma devi toglierlo, scusami, lo togli, vedi che ci sono i soldi, giuro, nel tostapane ero. E adesso sì, lì però in effetti il ladro dai si mette a fare un toast, non ci ma va a guardare dentro. Ma figurati che il ladro al limite ruba il cioccolatino, mica fa il toast. Niente, e ieri sera l'ho messo nel cassetto, ho chiuso a chiave, adesso quando ho sentito questa trasmissione ho detto no, vado a casa e riapro il cassetto, perché sennò mi spaccano anche il cassetto. Ma lei vive sola, Barbara? No, non vivo sola, è in casa mia aperta a tutti, mi fido dalla gente, degli amici, non ho problemi. Sfida tanto le prove da nascondere. Sa quante bustine hanno trovato gli amici e non glielo dicono nemmeno? Non mi interessa, io sono onesta, spero che i miei amici sono onesti. Barbara, posso andare in bagno? E a un certo punto vedi l'amico, esce tutto contento. Ma figurati, no, da me mi niente per bene. Barbara, mi faccio un caffè, non c'è niente di male, posso andare a farmi un caffè, non ti preoccupare, ma vedi succede, che esce. Cioè, succede, ho un appuntamento, succede. Me ne vado. C'ha 750 euro. Quando ho fatto il blocco, che ho cambiato casa, ho messo tutto l'oro di mia figlia in un sacchetto di celofan. Convinta che me l'avevano rubato, era sotto nel letto, nel cassone sotto al letto, questa borsa del cenno di Cervan, che praticamente dicevi cos'è che c'è dentro quella borsa lì, c'erano tutte le scatoline, sa, regalo di compleanno, della crema, c'è una bozzata della comunione d'oro tenuta così, sì, che vabbè. Così Barbara, si vive bene. Lei diciamo è una sfida alla sfortuna e ai ladri. È talmente spocchia nel suo stentare nascondigli banali che ladri dicono ma qua non è possibile che ci sia, e magari è proprio la volta in cui si perdono il loro bottino. Marco, provincia di Pavia, o da Pavia. Buongiorno, buongiorno. Io purtroppo devo dire che facevo come Barbara, ma ho avuto una brutta esperienza, perché in una giornata in cui non eravamo a casa i ladri sono arrivati e hanno messo sotto sopra tutto e hanno trovato quasi tutto. Ecco. Diciamo, e dove erano i nascondigli che hanno trovato i ladri? Vediamo dove erano nascosti. Erano negli armadi, erano sotto il letto, erano dentro dei cassetti. Ma sotto il letto buttati così? Ma no, diciamo nel cassetto sotto il letto, erano mischiati insieme alla biancheria, però in realtà però vede, benissimo. Diciamo, i ladri sanno che le nostre gioie stanno nelle nostre mutande, sì, lo sanno benissimo, è proprio una frase che se la dicono sempre. La scuola di furto dice dove nascondono le gioie gli italiani? Nelle mutande, vanno al primo posto, però, le vanno a vedere. Però mi ha fatto venire in mente un mio prozio che si chiamava Celestino e che lui aveva l'abitudine di nascondere gli ori in un modo piuttosto originale. Li metteva all'interno della carne di pollo e li surgelava, li metteva nel freezer. E non è mai stato derubato, non ha mai avuto problemi. Cioè faceva gli involtini di pollo, farciti con la pancetta, la patata e l'anellino. gli anellini o magari qualche, soprattutto lui prediligeva l'oro bianco perché diceva che si mischiava con il ghiaccio, quindi non si vedeva. Lui credo che era la sua forma di investimento, diciamo, lui investiva nel bocconcino di pollo. Esattamente. Anche questo. Certo, se una volta si faceva il pollo al curry si spaccava la dentiera se si dimenticava che c'era dentro l'anello, il diamante. Non è mai successo. Si è mai spaccato denti, si vede che probabilmente aveva un modo per riconoscere il tutto, però effettivamente. Però secondo me nel freezer perché ci vanno a guardare i ladri. Però nel mio sì, ci stanno le fette sottilissime di petto di pollo, sono talmente sottili che lì non ci può andare niente, a meno che ci metta delle foglie d'oro, però mi sembra improbabile. Antonio da Verona. Pronto? Sì. Senta, io volevo dirle che ho sentito uno stralcio della sua trasmissione. Sì. Innanzitutto volevo dirle che quelle che lei ha citato come dei prodotti che si aprono facilmente in casa e si scassano non sono casseforti come lei li ha definite, ma la norma le definisce come contenitori di sicurezza. No, io ho visto aprire una cassaforte vera a tutti gli effetti, quelle diciamo di buona qualità, era murata dentro il muro. Esatto, quelle lì, casseforte, quelle che sono al muro, quei contenitori che in genere che sono al muro, in genere al 99% non sono casseforti, sono contenitori di sicurezza. E perché le vendono come casseforti? La norma UNI le definisce come contenitori di sicurezza. E cos'è mi spieghi perché me l'hanno venduta per cassaforte? Qual è la differenza? Allora, la cassaforte è un prodotto che può essere certificato secondo la normativa EN 11431, UNI EN 11431. Quindi lei è un esperto in cassaforti, o è un ladro, sì, un esperto in cassaforti lei? Mentre quelle che si chiamano oggi contenitori di sicurezza per uso privato, volgarmente in gergo chiamate casseforti che si usano in casa, sono testati, se sono testati, secondo la UNI EN 14450. Quindi se si apre col frullino non è una cassaforte. No, questo è interessante. Se si apre col frullino non è una cassaforte. Allora, innanzitutto le dico che tutti i prodotti casseforti... No, fermo, aspetti, guardi, siccome è interessantissimo il suo contributo, mi può avere la bontà di aspettare un minuto, devo dare la linea, poi riprendo con lei, perché questa abbiamo un esperto in cassaforti che o appartiene alla banda Bassotti o veramente prezioso per il suo contributo tecnico. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo proprio con lei. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. 800 24 00 24. Partendo dal caso di Franck Ribéry, giocatore della Fiorentina svaligiato nella sua casa a Firenze, stiamo elencando quelli che sono i nascondigli sicuri, insicuri, ovvi, scontati e violabilissimi delle vostre case. Parlavamo con un ascoltatore che è un esperto in cassaforti, che mi correggeva sul fatto che ho definito casseforti quelli che sono soltanto contenitori di sicurezza. Era Antonio da Verona. Antonio, è ancora in linea? Sì, sono ancora in linea. Senta, ma quei contenitori di sicurezza che hanno tre rotelle con la combinazione e un'altra rotella per aprire, che è una cassaforte o un contenitore? Allora, qui già sta parlando di serratura. La serratura già è un accessorio a quell'oggetto che chiamavamo contenitore. Il classico attrezzo che si mette che ti vendono, che ha tre rotelle che si girano con i numeri per le combinazioni. Allora, se lei sta parlando di quegli oggetti che vengono dalla Cina e che costano pochi euro, assolutamente quelli non sono né cassaforti. No, pochi euro, costano qualche migliaio di euro, non è che proprio sono oggetti da... Allora lei sta parlando non bottone, sta parlando quelli con la combinazione meccanica, quella che si chiama volgarmente cifrata? Ci sono tre rotelle, a caso una che possa aver visto, ci sono tre rotelline che si girano con numeri e lettere sotto un'altra che apre e chiude. E sono belle spese. Non costano migliaia di euro sicuramente. No, allora per essere sicuri che non te l'aprono cosa bisogna comprarsi? Allora, per essere sicuri che non le aprono, innanzitutto, un conto è l'apertura, come dice lei, con manipolazione o forzatura della serratura. Un conto è proprio la distruzione o l'apertura della la forzatura della cassaforte. Ma ci sono degli spuntoni d'acciaio che escono, come fanno a aprirla, a forzarla quella? La tagliano? Allora, due parole. normalmente oggi con la parola cassaforte si intende tutta una serie di prodotti che vanno dalle cassefortine cinesi che costano 20-30 euro, che sono praticamente delle cosettine tipo scatola da scarpe, secondo la mia quella inutile, opinione. Tanto vale metterle in una scatola, tanto no, ecco, io quelle lì le chiamo le, ed altre anche, le casseforti placebo, cioè sono quei prodotti che rendono la persona che le prende lì e le utilizza sicuro che va via. È come una pillolina omeopatica, è acqua e zucchero, però pensiamo che ci fa bene. E invece fanno molto comodo ai ladri, che così si risparmiano di girare per la casa, che trovano tutto là dentro. E in pochissimo tempo, adesso non andiamo nel dettaglio di quanto tempo. No, anche perché poi passiamo subito ad altri ascoltatori, certo. Capito. Quindi quello lì è il concetto. Poi, oltre a quelli lì che sono quelle che abbiamo detto, contenitori cinesi e altre parti, c'è un primo livello che si chiamano contenitori di sicurezza per uso privato. Questi contenitori di sicurezza per uso privato possono essere o certificate oppure no, quindi certificate che garantiscono un certo livello di sicurezza. Allora, la chiudiamo qua. Senta, quanto bisogna spendere per avere un attrezzo in casa che sei sicuro che perlomeno c'è un margine elevato? Per avere un attrezzo in casa che sia sicuro bisogna prendere un oggetto intanto certificato secondo la UNI N1143-1. Sì, mi dica più o meno quanto si spende, così la gente capisce se ha buttato i soldi. Si spende diciamo 800-1000 euro. Sui 1000 euro. Allora, sotto i 1000 euro non perdete tempo, lasciatela aperta, sennò vi rovinano anche il muro. Grazie mille Antonio. Rosa da Padova. Eccomi qua. Allora, come scherzatore, anch'io non avevo messo l'allarme. Uscì, rientrata dopo un'ora e mezza, trovato la casa sotto sopra. Avevano portato via solo le cose di mio figlio perché le aveva nascoste in un cassetto. Mia figlia, invece, la sorella, aveva messo tutti i gioielli, che tra l'altro ce n'erano di costosi, della nonna, in mezzo alle cianfrusaglie a braccialetti da un euro o due euro. Ah, nel cesto delle cazzate aveva messo anche cose vere, diciamo così, delle collanine. In bella mostra, non hanno portato via niente, che erano cose molto più veramente di valore. E invece hanno trovato, scovato in questo cassetto tutte le cose. Quindi l'astuzia è nascondere roba vera nel cestone delle cianfrusaglie. Solo che sicuramente metterla anche in evidenza, forse. Sì, però sommato. Se il ladro è un saltafossi, lascia perdere. Ma se il ladro quello con l'occhio, io ho visto fare delle selezioni addirittura sui soprammobili, lasciando quelli finti e prendendosi quelli veri. Certi hanno l'occhio molto addestrato, se un anello anche sembra vero e finto lo mollano. Francesca da Roma. Ah, buongiorno, senta, io non ascolto proprio niente, sono tutti ladri, io praticamente sono molto disordinato, dunque c'avevo un gioiello dalla parte, uno in bagno, uno in un cassetto, mio marito che invece è precisissimo, gli hanno detto, ha aperto tutte le scatolette con dentro gli orologi, hanno rubato tutto, siamo tornati a casa, è venuta la polizia e io gli ho fatto l'elenco della roba che avevo, mi ha detto no, ho trovato l'anello di brillanti, no, ho trovato questo, no, ho trovato, perché io ho trovato tutto, non mi hanno rubato nulla, lui invece dove l'aveva messo, dove l'ha buttati così? Buttati in ordine sparso. Ma io sono disordinata io, ma manco mi ricordavo, li metto io, uno li lascio in bagno, uno esco la sera, lo metto, sono molto disordinato. Mio marito non mi ha più criticato per il disordine. Cioè infilato nello spazzolino da denti, non l'hanno trovato. No, e poi invece hanno tentato di aprire una cassaforte, che era vuota peraltro, ma hanno distrutto il muro, ma non sono riuscito neanche a prendere la cassaforte, che era peraltro era vuota, non c'era niente. Sì, il consiglio è cassaforte o armadio di sicurezza, come dice il nostro pedante ascoltatore, pedante in quanto preciso. Se non c'è roba lasciatela aperta, evitate che comunque vi facciano casino dentro casa, tanto non c'è niente, inutile tenerla, ma sembrano delle spese più inutili, a meno che uno non... la cassaforte può servire per mettere cose che non vuoi che ci mettano il naso gli altri in famiglia, ecco, al massimo. Però la cassaforte a fine del ladro, ecco, deve essere una cassaforte molto molto molto attrezzata. Poi se vedo la cassaforte attrezzata, lo sanno, perché hanno le talpe che riferiscono puntualmente ogni cosa che avete in casa, vanno attrezzati per aprirla, perché dice grande cassaforte, grande bottino. Fabrizio, provincia di Ancona. Pronto Gianluca, buongiorno. Ci sorprenda. Come? Ci sorprenda. Ah sì, memore del film Il cittadino si ribella del 74 di Franco Nero, che inizia che gli vanno a casa e gli pisciano nel soggiorno, no? Sì, fanno anche di peggio, sai, per questo, sì. Sì. Allora io ho pensato, però è solo teoria perché non mi è mai successo per fortuna, copre i divani come la moglie di Fantozzi con il nylon, così almeno salva la pudicizia. Io metto 500 euro sul tavolo, con un biglietto ci scrivo: signori, dico, capisco che magari avrete dei figli da sfamare, io vi lascio questi soldi e cerco di essere gentile con voi, perché tanto ormai siete entrati a casa mia. Sì. Però non mi rompete niente e non mi fate danni. Perché e pensa di evitare la sgommata sul cuscino del ladro che va lì, dico, io sono stato gentile e spero che anche voi siate altrettanto. Buona fortuna, grazie. Scrivo, e ha avuto riscontro di questa sua tecnica psicologica raffinatissima. Sono fortunato perché non sono mai entrati, quindi li ho sempre ripresi. Sì, ma lei che spera che quelli prendono i 500 euro e sfasciano lo stesso tutto? Se no, che ladri sono? Se no sarebbero dei genti uomini. Tutti hanno un cuore, dai, speriamo che... io fossi un ladro direi, questo c'ha talmente tanti soldi che si permette di darci la mancia, spacca tutto e naturalmente insozza e immonda le sue zone più intime, così impara a fare il buono. Guardi che i ladri hanno una mentalità molto crudele. Domenico, provincia da Como, Domenico. Sì, buongiorno. Io stavolta credo di sorprenderla. Non so se possa essere definito dispositivo di sicurezza, come diceva il signore di prima, ma sì, ho un amico che secondo me faceva lo scassinatore, secondo me ne sapeva sicuramente, troppo. Comunque, sicuramente. Era troppo informato. Sì, sì, quello scassinava di brutto. Questo mio amico è un tassidermista. Produce su commissione degli animali. Cioè un imbalsamatore sarebbe. Sì, sì, è un imbalsamatore. Esatto. Ma di esseri umani o di animali? No, tutto, quel che capita. Umani non penso. Perché di animali. Sono. E se uno vuole essere imbalsamato si può, mica che non si può. Sì, sì, quello sì, tipo Lenin. Quindi allora, lui è un imbalsamatore, quindi? È un imbalsamatore, riceve su commissione determinati animali e questi animali hanno una caratteristica, nel senso hanno nell'orifizio, sì, la cloaca, sì, un dispositivo. Come proprio per occultare del denaro, gioielli. Ma cosa sono, pennuti, i vertebrati? Di solito sono pennuti, però possono essere anche volpi. Dipende, più è grande l'animale, più è la, diciamo, la possibilità. Cioè uno ricco si fa un orso imbalsamato, nel culo gli c'entra un lingotto d'oro, ecco, così dipende. Ma un povero si fa un topolino imbalsamato e ci mette la catenina della comunione, quella lì col San Cristoforo, che ne so, quelle cose lì. Però, ho capito. Chi è che va Funziona. A indagare lì? Penso proprio di sì. Adesso che lo sanno andranno tutti a infilare le dita nel sedere gli animali imbalsamati, che diciamo è anche una sorta di violazione della privacy dei nostri poveri amici a quattro zampe imbalsamati. Fermiamoci ancora un istante. Quello che cerchi nel tuo business, cercalo anche per la tua auto. Guida la nuova BMW Serie 3 Touring con il noleggio Alphabet da 499 euro al mese più IVA. Hai zero anticipo, zero pensieri e tutti i servizi inclusi. Offerta valida fino al 30 settembre su vetture disponibili subito, salvo approvazione di Alphabet Italia Fleet Management. Condizioni dell'offerta su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Melog 800240024. Vedo che purtroppo i fedelissimi ascoltatori del gruppo Melog ha parlato stanno rasentando il suicidio, perché stiamo elencando quelli che loro consideravano i loro preziosissimi ricettacoli dei loro averi. Ora abbiamo bruciato tutti i nascondigli e quindi è difficile, bisogna reinventarsi qualcosa di nuovo. I ladri naturalmente se ne ridono, sono tutte informazioni di cui hanno naturalmente tutte le possibili già indicazioni, come che ne so, nasconderli dentro la scatola di rivazione dei contatti elettrici. Uno smonta la scatola e in mezzo a fili nasconde gli anelli, ma anche lì è un posto dove si va a vedere se si ha tempo. Allora, Remo, provincia di Como. Sì, pronto. Buon dì. L'ascolto, Remo, sì. Remo che parla. Senta, io le voglio spiegare una situazione molto particolare che mi è successa ante euro, perciò parliamo ancora i tempi della lira, no? Nel momento in cui io ho ritirato un'azienda dove c'era una cassaforte, un'azienda che aveva chiuso, c'era una cassaforte che era pesantissima, pesava circa 7-8 quintali, 6 quintali circa, e dato che aveva la combinazione con difficile regolazione, non si usava questa cassaforte, e la misi in un angolo proprio in un angolo proprio quasi nascosto. Una cassaforte di 7 quintali, un angolo nascosto, dove vive lei? In un capannone? Ho preso un traspalez, ho preso un carrello, l'ho spostata perché non veniva utilizzata, però era un dispiacere anche buttarla via. Comunque mi sono ritrovato che questa cassaforte, a seguito dei lavori che erano stati fatti, che probabilmente l'hanno vista, non so, però non voglio fare nessuna illogica conclusione, andarono a prenderla di notte, perché mascherarono, allora c'erano i sensori per l'antifurto che si potevano mascherare con un domopac, tipo quello trasparente, no? Sì. La mascherarono, presero questa cassaforte, probabilmente per spostarla hanno usato anche... Che era sempre 7-8 quintali, come mi ha detto lei. Aspetti, la portarono in un ufficio. La inclinarono, presero un flessibile, non so se lei sa come è flessibile, è una lama che gira molto veloce, che serve per tagliare, sì, per tagliare la questa cassaforte aveva due pareti di acciaio, in mezzo c'era il cemento, per quello che pesava moltissimo, perché le cassaforte l'hanno aperta? L'hanno scoperchiata come una scatola di sardine, l'hanno aperta una parete e dentro una sera c'era dentro 10 lire, perché fortunatamente hanno invaso quel piccolo ufficio di pulviscolo, di acciaio, perché quando si taglia... Vabbè, questa è la sua vendetta. Certo, non tutti hanno disponibilità di metri quadri in casa per tenere in un angolo come se nulla fosse una cassaforte di 7 quintali in acciaio e cemento, però è una bella soddisfazione tutta questa fatica, e gli ha lasciato diabolico 10 lire. Gisella, provincia di Varese. Buongiorno, io volevo raccontare la disavventura di una signora che aveva nascosto tutti i suoi gioielli in un pollo che aveva poi congelato. Purtroppo, quindi usa molto mettere i soldi nei polli congelati. Magari sì, come raccontava già quell'altro ascoltatore. Perché dentro il pollo, se non lo vuoi farcire, ce n'entra parecchia di roba, diciamo la verità. Sì, ma poi nel tacchino ancora di più però. Ancora un tacchino, quelli lì di Natale, ha voglia mettere soldi dentro. Sì, però aveva affidato le chiavi a una vicina, come faceva di solito, per controllare la casa. Purtroppo c'era stato un appagno di elettricità, la vicina è andata, ha visto tutta la roba che puzzava in congelatore, ha buttato tutto. E così è finita, i gioielli sono finiti in pattumiera. Aveva fatto i conti senza l'oste, la vicina ha visto la roba putrefatta dentro il freezer, ha detto buttiamo via tutto. Pensate, quel cagnolino che è andato a razzolare negli avanzi dell'umido, quel pollo lì si è incastrato nei denti anelli, diamanti, diademi di brillanti, e non ha mai saputo il valore. Bella storia. Angela, da Lucca. Sì. Angela. Sì, salve, buongiorno. Il suo nascondiglio. Sì, l'ascolto, Nascondiglio. Anche. In realtà non abbiamo avuto molti nascondigli. Noi stiamo, come dicevo, stiamo ristrutturando casa, quindi avevamo completamente svuotato la casa e ovviamente, come dire, le cose che ritenevamo più preziose da un punto di vista economico, cose di questo genere, le abbiamo messe in posti sicuri. Ma abbiamo fatto diversi scatoloni con le cose in sospeso da poi riportare in casa una volta fatta la ristrutturazione. E i ladri sono riusciti mettendo questi scatoloni in garage, e questi ladri sono riusciti a entrare dentro il garage sperando, non si sa bene, di trovare cosa, e in realtà hanno fatto una grandissima confusione, quindi hanno tirato all'aria, buttato all'aria il lavoro di almeno un mese di sistemazione. Sì, ma c'erano le cose preziose in questi scatoloni? Le cose più preziose che mi hanno portato via sono i miei dischi in vinile, a cui tenevo tantissimo, quindi voglio dire, i ladri un po' si attaccano un po' a tutto, chissà cosa avrebbero pensato di trovare mai, e questo è stato un ma po'... Diciamo, ma gli ori non l'avete lasciati negli scatoloni, l'avete messi in qualche altra parte? No, ovviamente, però abbiamo avuto questa bella sorpresa di trovare... Ma potrebbe essere un furto mirato, qualche amatore di dischi in vinile, perché portare via dei dischi in vinile, fra l'altro occupano tanto spazio, poi cosa ci farei mai, anche se li vendi per quanto sia, è un magro bottino, pericoloso e difficile, non mi sembra che sia proprio mirato. Mi stanno facendo vedere adesso gli ascoltatori, sempre del gruppo Melog ha parlato, alcuni nascondigli che si vedono, la gente poi c'ha il nascondiglio, poi mette le foto in rete. Un vecchio case da computer al posto del lettore DVD, lo apri e dentro ci puoi mettere i soldi. Ma chi c'ha più un lettore da DVD? Già uno vede un lettore da DVD e un attrezzo del genere in una casa, viene da pensare che dietro la pidocchieria di un così vetusto strumento informatico ci possa essere naturalmente il bottino nascosto. Beh, per oggi anche l'abbiamo sfangata, ci sentiamo domani.